Un buon pomeriggio a chi ci ascolta. Siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi è sabato 7 febbraio, sono le 15.01 e iniziamo puntualissimi questa prima puntata di una nuova trasmissione. Chi ascolta abitualmente questa radio è stato martellato nell'ultima settimana dal nostro spottino. Ebbene, eccoci qua, questo spazio si chiama Scarpette Rosse, una trasmissione di fiabe e sulle fiabe. Saremo a questi microfoni un sabato sì e un sabato no, a partire da oggi, dalle 3 alle 4 del pomeriggio. Vi lascio all'ascolto della nostra sigla, che sicuramente qualche orecchio navigato avrà riconosciuto. Noi l'abbiamo rubata a un programma televisivo che andava in onda sulla rete nazionale nel lontano 1964. Noi faremo, vieni qui e leggiamo. Come per gioco a poco noi ci trasformeremo, che piano piano tanto lontano forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà, vieni qui e insieme leggiamo. I know a little girl with... Dunque iniziamo questa prima puntata di Scarpette Rosse e intanto voglio subito ricordare che la lettura di fiabe in radio non è una novità assoluta per questa emittente, che un paio di anni fa ha ospitato una trasmissione che si chiamava Stona Favola, dove molti attori e attrici hanno prestato la loro voce a narrazioni dedicate ai più piccoli. E tra l'altro potete trovarne tutte le puntate caricate nell'archivio delle trasmissioni sul sito della radio, che vi ricordo è www.ondarossa.info, e approfitto per dire che su questo stesso sito verranno naturalmente caricate anche le puntate di Scarpette Rosse. Abbiamo pensato questa trasmissione come una sorta di viaggio con cui da qui all'estate vorremmo esplorare quell'immenso archivio, meglio un pezzetto di quell'immenso archivio di saperi, pratiche, formule e destini che sono le fiabe popolari e le fiabe d'autore o letterarie. In ogni puntata avremo un ospite che ci leggerà appunto una fiaba e a seguire, nella seconda parte, un approfondimento dedicato ai temi, alle strutture, ai dibattiti che attorno alle fiabe sono nati e che naturalmente sono ancora in corso. E poi parleremo delle grandi domande dell'adulto davanti alla fiaba, domande di cui probabilmente i bambini conoscono le risposte o che comunque non costituiscono per loro un problema. E all'interno di tutte queste questioni cercheremo di orientarci ripercorrendo anche le più celebri tappe dello studio sulla fiaba, da Prop a Calvino a Bethlehem fino a Zipes, per fare alcuni nomi. Partiremo da alcuni classici, quindi principalmente affonderemo i piedi, per usare questa metafora molto tipicamente fiabesca delle scarpe magiche, li affonderemo in alcune grandi raccolte famose come le fiabe italiane di Calvino, le fiabe siciliane di Pitré, la raccolta dei Grimm, le fiabe di Perrault, quelle popolari russe o inglesi, le Mille e una Notte, quindi senza seguire un criterio cronologico che ci sembrava un po' noioso e didascalico, esploreremo un universo ampio e almeno per quanto riguarda il primo blocco di puntate che abbiamo già in agenda ci fermeremo qui, ma non mancherà occasione per delle incursioni in fiabe anche più lontane nello spazio ed esplorando le varianti in qualche modo lambiremo orizzonti anche lontanissimi. Sempre a livello di presentazione, voglio dire che l'urgenza di dar voce alle fiabe e di parlarne anche nasce in primo luogo da un'esperienza diretta, ossia dall'osservazione, che per quanto mi riguarda devo dire alle volte anche sorprendente, dell'effetto che le fiabe hanno sull'infanzia, sui bambini e le bambine che ascoltano la lettura di una fiaba. Il constatare cioè che la fiaba, forse e anche soprattutto nelle sue forme più arcaiche, col suo linguaggio delle volte desueto, nonostante tutto ciò, chi legge una fiaba a un bambino o una bambina si accorge che questa provoca una reazione che ha proprio la forma della soddisfazione di un bisogno, di un'adesione immediata e di una comunicazione profonda al tempo stesso. Ovviamente quello di bisogno è un concetto complesso e sfaccettato, e quindi si tratta anche di una messa in moto delle tonalità emotive più diverse, che vanno dalla paura al divertimento, passando per tutta la gamma che può esserci in mezzo. Ecco, questo per dire che a nostro avviso la fiaba è davvero un oggetto mediale, uno strumento di relazione sia tra adulto e bambino, sia soprattutto del bambino o della bambina con se stesso e il proprio modo di decodificare e affrontare il mondo. Questa è solo una delle varie angolazioni da cui è possibile affrontare la macro questione della fiaba, e proveremo a spingerci in più direzioni. Prima di cominciare la puntata vera e propria, voglio dire solo un'ultima cosa a livello introduttivo, e cioè che l'idea di questa trasmissione non nasce nel modo più assoluto da una competenza, diciamo, scientifica, ufficiale, e cioè le autrici di questa trasmissione semplicemente mangiano quotidianamente fiabe per passione, poi hanno iniziato a bazzicare la letteratura che le riguarda, quindi ecco, la trasmissione avrà più la natura di un'indagine in corso e che ci piace mettere a tema qui nel contesto di questa radio. Dunque, devo presentarvi la nostra prima ospite, che è qui, è un'attrice, un'autrice, una regista teatrale, tante altre cose, anche un'amica mia, cara, e si chiama Tiziana Lucattini. Ciao a tutti. Ciao. E non c'è solo Tiziana, abbiamo anche una sorta di spettatore partecipante che è l'ospite della prossima puntata del 21 febbraio, ma visto che è già qui con noi ve lo presento e lo salutiamo. Lui è Fabio Traversa. Ciao a tutti. Che posso dire è conosciuto da molti come insomma alcuni suoi famosi personaggi, poi magari ne parleremo, ma forse non tutti sanno che proprio come Tiziana e insieme Fabio e Tiziana da molti anni lavorano a contatto con la letteratura per l'infanzia, il mondo delle fiabe, portando avanti una ricerca artistica all'interno di questo materiale. E quindi appunto ospiti come loro che verranno qui in radio a leggere saranno anche una risorsa ricchissima per il nostro discorso in quanto narratori di professione. Sarà interessante parlare di fiabe con chi pratica la narrazione fiabesca in modo diciamo più tradizionale, quindi mediato dalla voce viva, dalla presenza fisica, quindi il modo in cui la fiaba, almeno quella popolare, era trasmessa prima dell'arrivo delle versioni filmiche o animate che in parte l'hanno soppiantata, monopolizzando anche per certi versi l'immaginario fiabesco. Ovviamente non voglio contrapporre tradizione da una parte, innovazioni di linguaggio e tecnologie dall'altro, però mi sembra interessante sondare anche questo elemento di cui di recente discutevo proprio con Fabio. E nello spazio di approfondimento avremo anche corrispondenze telefoniche con persone che a vario titolo si occupano di fiabe, e infine, chi lo sa, qualcuno che ci ascolta vorrà prendere parte alla nostra indagine sulla fiaba, condividere riflessioni, conoscenze, esperienze pratiche. E per intervenire nella trasmissione potete chiamare il numero della radio, che è lo 06 491 750. Dunque, mi scuso per la lungaggine, non succederà più che la puntata ci metterà così tanto a ingranare, ma volevo fare una sorta di cappello generale per la trasmissione. Ora possiamo partire, quindi infiliamoci le scarpette rosse ed ecco la fiaba che abbiamo scelto per la puntata di oggi. Che cosa ci leggi, Tiziana? Le scarpette rosse di Andersen. C'era una volta una bambina molto graziosa che d'estate doveva sempre andare a piedi nudi perché era povera, e d'inverno portava degli zoccoloni di legno, così che il collo dei suoi poveri piedini diventava rosso rosso, che faceva pena a vederlo. Sulla piazza del villaggio abitava la vecchia calzolaia, che seduta al suo deschetto mise assieme meglio che poteva un paio di scarpette, cucendo delle vecchie strisce di panno rosso. Erano un po' goffe, ma l'intenzione era buona. Le avrebbe date alla piccola. Essa si chiamava Karen. Fu proprio il giorno del funerale della madre che Karen ebbe in dono le scarpette rosse e le calzò per la prima volta. A dir la verità, non erano le più adatte per il lutto, ma lei non ne aveva altre. E così vi infilò i piedini nudi e seguì la povera cassa di paglia. In quel momento ecco che arrivò una grande vecchia carrozza dove era seduta una vecchia signora. Vista la piccola, ne ebbe compassione e disse al parroco: «Mi dia la bambina e io me ne occuperò con affetto». Karen pensò che fosse merito delle scarpette rosse, ma la vecchia signora disse che erano orribili e furono bruciate. La fanciulla ebbe dei vestiti puliti e graziosi, dovette imparare a leggere e a cucire, e la gente diceva che era graziosa, ma lo specchio le confidava: «Tu sei molto più che graziosa, tu sei bella». Un giorno la regina fece un viaggio attraverso il paese, e con lei era la sua bambina, che era una principessina. La gente si accalcò davanti al castello e tra gli altri c'era Karen, mentre la principessina rimaneva affacciata a un balcone, tutta vestita di bianco per farsi vedere. Non aveva né strascico né corona d'oro, ma delle splendide scarpette di marocchino rosso. Erano veramente graziose. Altro che quelle cucite dalla calzolaia per la piccola Karen. Nulla al mondo può essere paragonato a un paio di scarpette rosse. Karen giunse così all'età della confermazione. Ebbe dei vestiti nuovi e bisognò pensare anche alle scarpette nuove. Il ricco calzolaio della città le prese la misura del piedino. Gliela prese a casa sua, in una sala piena di grandi armadi di vetro, dove erano scarpe graziosissime e stivali lucidi. Era tutto molto bello, ma la vecchia signora aveva la vista cattiva e quindi non ci provava gusto. Tra le altre scarpe ce n'erano un paio rosse, tali e quali a quelle che aveva la piccola principessa. Ah, com'erano belle! Il calzolaio infatti disse che le aveva fatte per una contessina, ma poi non erano andate bene. «Son certo di pelle lucida», osservò la vecchia signora. «Brillano tanto». «Sì, brillano», asserì Karen. Le scarpe le andavano bene e così furono comprate. Ma la vecchia signora ignorava che fossero rosse, altrimenti non avrebbe mai permesso a Karen di farsi confermare con delle scarpe rosse ai piedi, come poi avvenne. Tutti le guardavano i piedi e quando essa attraversò la navata della chiesa le sembrò che persino i vecchi ritratti dei defunti fissassero le sue scarpette rosse. E lei non pensò ad altro mentre il sacerdote le posava la mano sul capo, parlandole del santo battesimo. Il pomeriggio tutti informarono la vecchia signora delle scarpette rosse ed essa dichiarò che era stata una cosa brutta, che non andava, e ordinò a Karen di mettere sempre le scarpe nere quando andava in chiesa, anche se erano vecchie. La domenica seguente ci fu la comunione. Karen guardò le scarpe nere, poi guardò le scarpette rosse, le guardò ancora una volta e finì per mettersele. Alla porta della chiesa c'era un vecchio soldato con una stampella e una lunga barba stranissima, più rossa che bianca, e si inchinò sino a terra chiedendo alla vecchia signora se doveva pulirle le scarpe. Karen allungò subito il piedino anche lei. «Che belle scarpette da ballo!» esclamò il soldato. «Aderite bene ai piedini quando ballate!» E così dicendo batté la mano sulle suole. Dato un soldino al vecchio soldato, la signora entrò in chiesa con Karen. Lì tutti guardarono le scarpette rosse. Le guardarono persino i ritratti. E quando Karen, inginocchiata all'altare, avvicinò alla bocca il calice d'oro, pensava solo alle scarpette rosse. Le pareva anzi di vederle nuotare nel calice. Si dimenticò di cantare il salmo e tralasciò di recitare il Padre Nostro. Poi tutti uscirono dalla chiesa e la vecchia signora risalì nella sua carrozza. Karen sollevò il piedino per montarvi anche lei, e allora il vecchio soldato che stava lì vicino esclamò: «Guarda che belle scarpette da ballo!» E subito lei non poté resistere al desiderio di fare qualche passo di danza, e una volta cominciato le gambe continuarono a ballare. Era come se le scarpette avessero un potere su di lei, ed essa, sempre ballando, svoltò l'angolo della chiesa. Fu più forte di lei e il cocchiere dovette correrle dietro per afferrarla, sollevarla di peso e ficcarla nella carrozza. Ma i suoi piedini continuarono a ballare, prendendo a calci la vecchia signora. Ah, che pena! Alla fine si riuscì a toglierle le scarpette e le sue gambe si fermarono. A casa le scarpette vennero riposte in un armadio. Ma Karen non poté fare a meno di andarle a guardare. La vecchia signora si ammalò e dicevano che sarebbe morta presto. Bisognava curarla e assisterla, e questo compito non spettava ad altri che a Karen. In città però c'era una gran festa da ballo e la fanciulla era stata invitata. Essa guardò la vecchia signora che tanto non poteva vivere a lungo, guardò le scarpette rosse e pensò che in fondo non avrebbe commesso un peccato, e le infilò. E fin qui non c'era nulla di male, ma poi andò alla festa e cominciò a ballare. Ma quando volle andare a destra, le scarpe la portarono a sinistra. Quando volle avanzare nella sala, quelle la riportarono all'ingresso, giù per le scale, attraverso la strada e fuori dalla porta della città. Ballare, ballare, non c'era verso di far diversamente, e così entrò ballando nel bosco nero. Lì c'era qualcosa che brillava tra gli alberi, ed essa pensò che fosse la luna, dato che era un viso, ma invece era il vecchio soldato dalla barba rossa che stava lì seduto e le fece un cenno col capo dicendo: «Guarda che splendide scarpette da ballo!» La fanciulla allora si spaventò e volle gettar via le scarpette rosse, ma quelle le stavano strette strette. Si strappò allora le calze, ma le scarpette le rimasero attaccate ai piedi, ed essa continuò a ballare. E ballò sui campi, e ballò sui prati, ballò alla pioggia, e ballò al sole, di giorno e di notte. Ma il peggio di tutto era la notte. Entrò ballando nel cimitero. La fanciulla volle sedersi sulla tomba di un povero dove cresceva l'amara salvia selvatica, ma per lei non c'era pace né riposo. E quando si diresse ballando verso la porta aperta della chiesa, Vide un angelo con una lunga veste candida e delle ali che gli andavano dalle spalle sino a terra. Il suo viso era serio e severo e in mano teneva una larga spada sfavillante. «Dovrai ballare!» esclamò. «Ballare con le tue scarpette rosse finché diventerai pallida e fredda, finché la pelle ti si raggrinzirà intorno alle ossa come a uno scheletro. E dovrai ballare di porta in porta, e dove abitano dei bambini superbi e vanitosi, dovrai bussare, così quelli ti sentiranno e avranno paura. Dovrai ballare, ballare.» «Pietà!» invocò Karen, ma non sentì la risposta dell'angelo, perché le scarpette la portarono attraverso il cancello, fuori, nei campi, per strade e sentieri, costringendola sempre a ballare. Una mattina passò ballando davanti ad una porta che conosceva bene. Stavano portando fuori una bara coperta di fiori. Allora seppe che la vecchia signora era morta e le sembrò di essere abbandonata da tutti e maledetta dall'angelo di Dio. Ballare e ballare, non poteva farne a meno, e ballò nella notte scura. Le scarpette la portarono su spine e su stoppie ed essa si graffiò a sangue. Ballò attraverso la landa sino a un casolare solitario. Lì, lei lo sapeva, abitava il boia. E allora batté con le dita sui vetri della finestra. «Esci fuori! Esci fuori! Io non posso entrare perché sto ballando!» «Ma non sai chi sono io! Io taglio la testa ai cattivi e sento che la mia scure sta già vibrando!» «Non tagliarmi la testa!» pregò Karen, «perché allora non potrò pentirmi del mio peccato! Tagliami piuttosto i piedi con le scarpette rosse!» Poi confessò il suo peccato e il boia le tagliò via i piedi con le scarpette rosse. Ma quelle continuarono a danzare con dentro i piedini attraverso i campi verso il bosco nero. Il boia le intagliò allora dei piedi di legno e delle grucce, le insegnò un salmo, quello che cantano sempre i peccatori, e la fanciulla baciò la mano che aveva calato la scure e se ne andò per la landa. «Ora ho sofferto abbastanza per colpa delle scarpette rosse», si disse Karen, «adesso voglio andare in chiesa perché tutti mi vedano». Si avviò così in fretta verso la porta della chiesa, ma quando fu lì davanti vide le scarpette rosse che la precedevano ballando. Si spaventò allora e tornò indietro. Per tutta la settimana fu afflitta e pianse molte lacrime amare, ma quando venne la domenica esclamò: «Adesso ho sofferto e lottato abbastanza, mi sembra di non essere davvero peggiore di molti di quelli che stanno seduti in chiesa a testa alta». E così si avviò coraggiosamente verso la chiesa, ma non era ancora arrivata al cancello che vide le scarpette rosse ballarle davanti. E allora si spaventò, tornò indietro e si pentì di tutto cuore dei suoi peccati. Si diresse allora verso il presbiterio e pregò che la prendessero a servizio. Sarebbe stata laboriosa e avrebbe fatto tutto il possibile. Oh, no, no, del guadagno non le importava, ma le sarebbe bastato avere un tetto sul capo ed essere in casa di buona gente. La moglie del pastore ne ebbe compassione e la prese a suo servizio. La sera, quando il pastore leggeva la Bibbia ad alta voce, Karen se ne stava seduta ferma, ferma, a sentire. Tutti i piccoli le volevano molto bene, ma quando parlavano di eleganza, di fronzoli e di essere belli come una regina, lei scuoteva la testa. La domenica si recarono tutti in chiesa e le chiesero se voleva andare con loro, ma lei guardò tristemente le sue grucce con le lacrime agli occhi e si ritirò nella sua cameretta, così minuscola che vi stavano solo un letto e una seggiola, e si mise a sedere lì col suo libro dei salmi in mano. Mentre leggeva, piena di devozione, il vento le portò dalla chiesa il suono dell'organo ed essa sollevò il viso bagnato di lacrime, dicendo: «Mio Dio, aiutami!» Allora il sole brillò luminosissimo e le apparve davanti l'angelo del Signore dalla candida veste, ma ora non aveva più la spada tagliente tra le mani, ma un bellissimo ramo verde, tutto fiorito di rose, ed egli sfiorò con esso il soffitto, che si alzò altissimo, e nel punto toccato brillò una stella d'oro. Poi sfiorò le pareti e quelle arretrarono, e Karen vide l'organo che suonava. La chiesa stessa, infatti, era venuta dalla povera fanciulla nella sua minuscola cameretta. Oppure era lei che vi era andata? Stava seduta accanto agli altri. «Hai fatto bene a venire, Karen!» «È stata la grazia», rispose la fanciulla. E l'organo risuonò e le voci infantili del coro si levarono, dolci e bellissime. I chiari raggi del sole entrarono caldi dalla finestra e toccarono il banco dove era seduta Karen. Il suo cuore fu allora così colmo di sole, di pace e di gioia, che si spezzò. La sua anima volò sui raggi del sole sino a Dio, e lassù nessuno le chiese delle scarpette rosse. Red pajamas, red pajamas, red pajamas. I know a little girl with red pajamas, red pajamas on. I know a little girl who sings a song, sings a song, sings a song. I know a little girl who sings a song, sings it all day long. This is the little girl who sniffs the flowers, sniffs the flowers, sniffs the flowers. This is the little girl who sniffs the flowers, sniffs them all day long. I know a little girl with red pajamas, red pajamas, red pajamas. I know a little girl with red pajamas on. The little girl who sings a song, sings a song, sings a song. This is the little girl who sings a song, sings it all day long. And this is the little girl who sniffs the flowers, sniffs the flowers. Allora, magari qualcuno e qualcuna all'ascolto di questa fiaba, vabbè, ho difficoltà a chiamarla così, si sarà sorpreso, magari avrà pensato che gli è saltata la frequenza, però questa è una storia, una davanti alla quale poi Andersen lo conosciamo, insomma, almeno noi che un pochino di favole e fiabe ce ne intendiamo. Direi che La piccola fiammiferaia al confronto è un racconto umoristico. E io ne ricordavo un'altra versione che finisce con il taglio dei piedi e lì si ferma. Adesso la nostra brava conduttrice, con l'aiuto di Tiziana ovviamente, ci dirà perché ha scelto proprio questo racconto per iniziare appunto questo viaggio attraverso le fiabe. E insomma, perché direi che ce n'è abbastanza bisogno, e un racconto fra l'altro pieno di simboli che non sono quelli che troviamo in genere nelle fiabe, per come sono costruite, come ci insegna Prop, no? Che hanno una loro in morfologia della fiaba, che hanno proprio un loro schema preciso e tale deve rimanere. Però altrettanto piena di simboli, possiamo dire negativi in un certo senso. Allora a te la parola. Sì, infatti abbiamo aperto con una fiaba difficile, di un autore direi altrettanto difficile, o quantomeno sul quale è necessario ragionare e fissare degli elementi, e ovviamente ci toccherà anche spiegare non solo perché abbiamo deciso di aprire con questa fiaba, ma anche perché il titolo della trasmissione coincide con quello di una fiaba così macabra, e questo lo diremo magari alla fine. Intanto volevo dare delle coordinate sull'autore di questa e di tante altre fiabe famose. Tu hai citato poco fa La piccola fiammiferaia, ne parleremo poi, e possiamo ricordare Il brutto anatroccolo, L'acciarino magico, la sirenetta, I vestiti nuovi dell'imperatore, La principessa sul pisello, insomma Andersen, un autore sicuramente conosciutissimo. Mi ricordava Tiziana proprio ieri che tra l'altro il 2015 è anniversario sia della nascita che della morte di Andersen, che è nato nel 1805 è morto nel 1875, io non ho fatto il conto, comunque entrambi gli anniversari ricorrono quest'anno, e quindi siamo più o meno all'altezza cronologica di altri due nomi scolpiti a caratteri cubitali nella storia della letteratura fiabesca, ovvero i fratelli Grimm. Allora, prima di addentrarci in questa sorta di introduzione su Andersen che ho preparato, volevo coinvolgere Tiziana in un momento di discussione con lei, perché Tiziana, tu hai scritto e poi recitato e poi sei stata regista, e questo è il motivo per cui ho affibbiato a te la lettura di questa fiaba così difficile, una favola teatrale, se possiamo definirla così, che si chiama Scarpette Rosse. Cosa c'è di Andersen, cosa non nel tuo testo? E Sì. Allora, Scarpette Rosse è stato scritto, concepito da me nel 1991, e ero stata molto colpita dalla fiaba di Andersen, e quello era un periodo particolare, moriva anche mia nonna in quell'anno, e quindi c'era quindi questo aleggiare di una morte, e era anche il periodo dei bombardamenti da parte dell'America in Iraq, e questo quindi senso di morte, insieme alla lettura di Scarpette Rosse di Andersen, ha fatto uno strano cortocircuito, e ho cominciato a leggere poi degli articoli sui bambini di strada in Brasile, che venivano uccisi dagli squadroni della morte, composti spesso da ex poliziotti, militari in borghesi e gente per bene, cosiddetta per bene, che pagava, soldava appunto questi sicari, questi killer. E allora questo cortocircuito ha provocato la riscrittura personale, originale di Scarpette Rosse. E del testo originario sicuramente c'è la povertà, cioè questo abbandono, no? Questo essere, queste bambine che vivono per strada, no? Il mio Scarpette Rosse parla di due ragazzine di strada, quindi questo vivere per strada abbandonate, questa orfananza, perché le ragazzine sono orfane, tutte e due nella mia storia, o una non l'ha mai conosciuta la madre, l'altra è stata uccisa appunto da killer e squadroni della morte, e questo però desiderio di non arrendersi, legato appunto a un paio di scarpette rosse, perché quindi ribaltato la simbologia della scarpetta, ribaltato rossa. Nel senso che nella mia storia le scarpette rosse sono qualcosa di assolutamente vitale, come anche in Andersen, però Andersen era molto moralista e quindi l'ha voluto assolutamente punire questa voglia assolutamente legittima di questa bambina di ballare, andarsene in giro con un paio finalmente di scarpette rosse. Appunto nella mia storia le scarpette rosse vorrebbero portare verso una salvezza, verso un favoleggiato sud, dove gli squadroni della morte non esistono, dove non ti sparano, dove i bambini sono bambini e sono protetti, invece che ammazzati sotto gli acquedotti o nella periferia urbana, insomma. Grazie. Prego, Dora. Dunque, se posso aggiungere, sì, solo certo, una cosa, ho pensato, rileggendo dopo tanto tempo Scarpette Rosse, mi sono immaginata un regista che potrebbe mettere non in scena, che potrebbe un regista cinematografico che potrebbe fare una versione filmica di Scarpette Rosse di Andersen, uh-huh. E mi è venuto in mente Lars von Trier, ho pensato alle Onde del Destino e questo senso della donna che tra l'altro hanno la stessa formazione sia geografica, io ci ragionavo di recente anche preparando questa puntata, e anche uno stesso immaginario direi religioso, sì. Su questo poi vorrò dire qualcosa e mandiamo direi uno stacco musicale e poi ci troviamo per l'appuntamento e per l'approfondimento. Scusate. Allora, eccoci. Vorrei fare un po' un'introduzione generale su Andersen e sulla fiaba che abbiamo letto qui e che giustamente mi segnalano qua dalla regia che tocca spiegare perché una fiaba così, con questa impronta anche appunto fortemente non solo moralistica ma anche teologico-religiosa, direi, ci arriviamo. Se no penso, scusami, che le prossime trasmissioni c'è un calo di ascolti. Spaventoso. Comunque la prossima trasmissione abbiamo Calvino, quindi torniamo a casa, torniamo alla fiaba popolare, però parto proprio dal rapporto tra Andersen e i Grimm, quindi anche appoggiandomi a uno scritto interessantissimo di Gianni Rodari che oltre a essere uno scrittore di favole per l'infanzia, un grande conoscitore di fiabe, e scrive un'introduzione per la raccolta di Andersen nel 1970, poi è sempre stata ripubblicata e ora è disponibile nella raccolta che si trova più in circolazione, e Rodari parte con un paragrafetto introducendo le fiabe di Andersen che si chiama La coppia illegittima. Qual è la coppia illegittima? Dice Rodari, l'associazione che spesso viene fatta Andersen-Grimm. E lui scrive: pensare per coppie pare essere una necessità, ma la coppia Andersen-Grimm è una coppia arbitraria. E racconta un aneddoto sul primo incontro tra Andersen e Jacob Grimm, che era un po' più anzianotto di lui. Jacob è del 1785, Wilhelm è di un anno più giovane. Quindi hanno una trentina d'anni più di Andersen. Si incontrano nel 1845 in Germania, e in occasione di questo incontro Jacob dice ad Hans: ma lei chi è? Che cosa ha scritto? E Andersen, sbalordito di non essere riconosciuto, dice: ma come, lei deve conoscermi, io scrivo fiabe, facciamo lo stesso lavoro, una mia fiaba è stata addirittura pubblicata in una raccolta dedicata a lei e a suo fratello Wilhelm. E niente, Jacob risponde: no, guardi, mi dispiace, complimenti, mi felicito con lei, ma io quel libro non l'ho letto. Su questo aneddoto ci si potrebbe soffermare a lungo e sotto molti punti di vista. Rodari lo usa nel suo saggio per sottolineare due aspetti di Andersen, autore di fiabe. Il primo aspetto è la differenza tra la fiaba letteraria, quindi la fiaba che fa Andersen, e la fiaba popolare, quindi tra un lavoro di raccolta dove quindi ci sono le strutture tipiche fiabesche, quelle che poi più tardi Propp formalizzerà, la fiaba popolare, e dall'altra parte la fiaba d'autore. Anche dei Grimm adesso ne parlo così un po' per spizzichi, poi ci sarà una puntata dedicata a loro, al loro lavoro di raccolta a inizio marzo, la terza puntata. Dice Rodari: la frase che Jacob Grimm rivolge ad Andersen è un po' la stessa che le fiabe dei Grimm e quelle di Andersen potrebbero rivolgersi a vicenda, cioè: ma voi chi siete? Infatti, qual è la differenza che i Grimm del materiale della raccolta di Grimm? Che Grimm raccolsero le loro fiabe dalla bocca del popolo tedesco, naturalmente in un particolare contesto, e di questo parleremo, e Andersen invece, anche se in qualche modo recupera in modo creativo delle fiabe che gli erano state raccontate nella sua infanzia, il corpus magnum del suo lavoro favolistico, cito sempre Rodari, se lo è tirato fuori pagina per pagina dalla sua fantasia e dalla sua vita. Le fiabe dei Grimm quindi scendono dalla più lontana preistoria, diciamo, all'ingrosso indoeuropea. Quelle di Andersen nascono nella storia, nella letteratura, direttamente, quasi tutte, senza aver prima attraversato millenni e frontiere per incarnarsi nella lingua danese. La diversità delle fonti, ci sottolinea Rodari, io ho letto questa introduzione e praticamente l'ho saccheggiata preparando questa introduzione. La diversità delle fonti produce diversità di prodotti. Le fiabe di Andersen appaiono straordinariamente datate, cioè proprio figlie dell'ideologia del loro autore. Quelle dei Grimm, lo dico sinteticamente, questa è l'idea di Rodari, poi avremo modo di tornarci nella puntata dedicata, sembrano non avere data, o piuttosto avere il contrassegno profondo di quella che per brevità si potrebbe chiamare l'anima popolare tedesca. In particolare, poi è sempre giusto anche incarnare e storicizzare ciò di cui stiamo parlando. Quindi ecco, l'aneddoto da cui Rodari ci parla di questa estraneità tra i due lavori, quindi voi chi siete, e dall'altra parte ci parla di un altro aspetto fondamentale per leggere Andersen, ovvero la sua ansia di popolarità, di successo e anche di riscatto per mezzo della sua opera letteraria. Ora non vi espongo nel dettaglio la sua biografia, ma vi basti sapere che Andersen, nato in un paesino della Danimarca che si chiama, non so come si pronuncia, credo Odense, scritto Odense, figlio di povera gente, presto orfano del padre che era un falegname. Qui abbiamo anche una nota di colore che il padre aveva ricavato, il letto in cui il piccolo Andersen dormiva, e qua insomma, da un punto di vista psicologico ci si potrebbe divertire molto, da un catafalco, che è quella specie di baldacchino in cui si mettono le bare. Il piccolo Andersen dormì in questo coso, che l'ha segnato, possiamo dire. Padre che poi si arruola volontario con l'armata napoleonica per tentare la fortuna, ma troverà la morte. E poi sempre il piccolo Andersen, altro aneddoto, grande ansia da prestazione grava su di lui, o per il rovescio della medaglia un presagio di grandi cose, ovvero sua madre, di professione lavandaia, lo aveva messo a parte di una profezia ricevuta da un'indovina locale, la quale aveva profetizzato, appunto, come si dice, aveva visto nel futuro del piccolo Anders uno straordinario successo, dicendo che un giorno tutta la sua città natale sarebbe stata illuminata a giorno per fargli onore. Quindi il giovane Andersen, dopo un'infanzia piena di umiliazioni date dalla sua condizione di svantaggio socio-economico, da lui molto sofferta rispetto ai suoi compagni, prese in giro per il suo aspetto fisico, e qui si vede in controluce per esempio il brutto anatroccolo, nel clima del protestantesimo, anzi del luteranesimo austero della Danimarca del tempo, che era di confessione evangelico-luterana proprio per la precisione, in cui cresce, e quindi anche con una formazione molto incentrata sul ruolo della comunità religiosa, cioè sul far parte di una comunità religiosa, e il ruolo del pastore, con cui lui tra l'altro ebbe un rapporto molto problematico. Crescerà restando sempre sensibilissimo alle critiche, al limite della paranoia, tra l'altro una paranoia a tutto tondo, infatti se vi capita di passare da Odense, non si sa mai, nel museo cittadino c'è questa corda che Andersen portava sempre con sé in viaggio per paura che gli alberghi, i posti dove stava, prendessero fuoco e così avrebbe avuto qualcosa per calarsi sotto. Insomma, tutte queste paranoie, gran bisogno di ribadire in continuazione il suo successo, e quindi paranoie legate alle critiche al suo mestiere di scrittore. Insomma, parte per Copenaghen in cerca di fortuna, avrà anni difficili, qui si collocano una serie di fallimenti, un amore straziante, non ricambiato, pubblica alcuni romanzi per adulti che era il suo interesse di partenza, e poi arriva la fama, portata appunto dalle fiabe. Posso? Sì, certo. No, perché capisco anche l'esigenza, ma io qui ovviamente interpreto la radiofonicità, che forse mi è più propria, no? E quindi l'ascoltabilità, diciamo, della trasmissione poi si affinerà ovviamente nel tempo. Può essere interessante sicuramente la biografia come questa incide sulle favole, e credo che però l'aspetto più importante sia proprio il milieu in cui è immerso, tu l'hai detto bene, Andersen, cioè questa atmosfera luterana, questa comunità profondamente religiosa. Io invito per esempio a vedere, chi non l'avesse visto, Il pranzo di Babette, dove, bellissimo film, dove questa cupezza, no? Anche se ambientato, ma credo il periodo sia lo stesso, perché è un po' dopo la Comune di Parigi, quindi siamo nell'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento, dove viene proprio descritta benissimo, sembra proprio Scarpette Rosse, non tanto la fiaba quanto l'atmosfera e le intenzioni dell'autore messe proprio dentro un film, dove non si può ridere. E si può conversare solo delle scritture e di altre cose simili, e soprattutto non si può gioire di questa cena, questo pranzo, come si chiama al nord, straordinario, in cui Babette, appunto, fuggita dalla Francia dopo la Comune, in cui Babette spende tutti i soldi che ha vinto alla lotteria, non si può dire quanto è buono, non si può apprezzare. Credo sia proprio lo spirito assolutamente di Scarpette Rosse. Fra l'altro, una cosa che mi piaceva aggiungere, magari rubo un po' di tempo, però assolutamente, vai. È che i particolari cruenti, terribili, no? Io quando hai parlato del regista, io ho pensato a Dario Argento, figurati un po', più che a Lars von Trier. Ci sono nelle fiabe, questo sicuramente me lo confermerete voi che ve ne intendete più di me. Io mi ricordo una favola dove una cattiva matrigna viene messa dentro una botte irta di chiodi, adesso non ricordo quale fiaba è, rotolata tipo Attilio Regolo, ed è, insomma, a me da bambina fece abbastanza impressione, però ero pure contenta perché alla fine, insomma, io c'ho avuto quello che meritava. Quindi non è tanto il particolare cruento, raccapricciante, che anche è tipico, se, quello che è tipico proprio delle fiabe. Ci sono punizioni terrificanti dei personaggi malvagi, ma è proprio invece l'identificazione appunto con questa cultura. la speranza non esiste, non esiste un lieto fine in realtà. Come fa un bambino a identificarsi con col lieto fine che va in paradiso, che manco lo concepisce? Lui aspirava a scrivere per gli adulti e in effetti queste sono favole per adulti, per certi adulti. Senti, mandiamo una canzone perché squilla il telefono. Vai. Abbiamo una telefonata che ci può aiutare un po' a dirimere la questione del perché questa pseudo favola. Io mi permetto di allargarmi. Pronto? Pronto, ciao, scusate se intervengo insomma così un pochino all'improvviso, però era molto interessante questo aspetto che stavate sollevando e insomma mi piaceva dire qualcosa un po' dalla parte dei bambini e quel che mi è sembrato di capire, che molto spesso i bambini colgono e magari invece noi adulti rimaniamo un pochino terrorizzati di fronte a, appunto, a questi contenuti, a tutte queste intenzioni appunto che di cui avete parlato, che provengono dal risentimento un po' anche biografico di Andersen. Allora, nulla, mi faceva ridere dover chiamare e dover difendere Andersen, che è un autore che io non amo, perché tutto quello che avete detto è molto vero. Però paradossalmente in una fiaba del genere mi sembra che oltre a questi contenuti ci sia qualcosa di più potente, che è proprio la stessa struttura fiabesca, perché nonostante tutte queste intenzioni, quello che viene fuori poi anche in questa fiaba, come in tante che Cora, insomma, di cui parlerete poi nel corso della trasmissione, è proprio la potenza del rovesciamento, cioè uno stesso oggetto che diventa tante cose differenti. Di questo forse poi ne volevate parlare, però ecco, appunto, volevo ribadire questa cosa, che è un oggetto che racconta la storia di un itinerario di rovesciamento molto molto profondo. Dico, una cosa che i bambini comprendono molto bene, perché quando ascoltano una fiaba del genere la prima cosa forse che sentono è proprio una concordanza con quel primo oggetto come oggetto di un desiderio fortissimo, che è qualcosa che tutti i bambini possono capire molto da vicino. E poi la fiaba appunto entra nel magico, cioè qualcosa, sì, che diventa, esatto, da desiderio irrefrenabile qualcosa di magico, un oggetto appunto magnetico che porta fuori di sé. Quindi volevo sottolineare questo aspetto molto potente, che neanche le intenzioni più bigotte di un autore alle prese con la fiaba riesce a stupire, cioè proprio il bisogno appunto di uscire per le strade, per i boschi, fino al cimitero, fino ai posti più bui e più scuri della città, a partire da qualcosa di magico. Quindi ecco, volevo soltanto segnalare questo aspetto che mi sembra importante di questa fiaba che Tiziana Lucattini ha letto. Grazie, sì, grazie mille dell'intervento, che sicuramente riprenderò, in cui insomma io concordo pienamente, al di là insomma pensavo di dirlo dopo, però a questo punto lo anticipo. Rodari, che ci accompagna in questa introduzione ad Andersen, ma ci sei ancora? Sì, a pacco, scusate, no, come vuoi, dimmi. Okay, se non hai da aggiungere puoi ascoltarci per radio, come sì, sempre. Ciao, grazie dell'intervento. E sì, allora a questo punto io anticipo quello che pensavo di dire, oltre entrando nello specifico di questo clima culturale di cui sicuramente resta traccia in Andersen. Però una cosa interessante che Rodari sottolinea, che in questo intervento che abbiamo ascoltato mi sembra volesse portare l'attenzione su questo, è che il fantastico, il magico, il fiabesco non viene soppiantato in Andersen completamente da questa componente sicuramente anche moralistica, pedagogica, figlia di quel clima culturale nel quale Andersen è cresciuto. E non escludo che ci possano essere letture o usi moralistici, pedagogici, omologanti e, come si dice, tarpanti di una fiaba come questa di Andersen. Però se la lettura è, appunto, è una lettura immediata, come quella che può essere la lettura di un bambino, oppure se l'adulto che si fa mediatore della lettura della fiaba sa proporre al bambino una narrazione come questa, nella quale siano sottolineati appunto gli aspetti del magico, l'aspetto dialettico di un oggetto come, come la scarpetta che si desidera molto, sicuramente appunto la, la grande ricchezza fantastica che in questa fiaba e nelle altre fiabe di Andersen c'è, non viene schiacciata completamente dalla, dall'aspetto moralistico. Sì, sì, vai Tiziana, però devi prendere il microfono. Sì, volevo proprio rispetto a quello che ha detto la, la ragazza che è intervenuta prima, che Andersen è quella bambina lì, è Karen, no? È Karen Andersen che desidera con tutto se stesso, e quindi usando questo oggetto magico, come dice, diceva la, appunto l'intervento prima, no? In una maniera quasi, quasi devastante, però seguendo il suo destino, il suo desiderio fino, a, fino all'ultimo. Poi lui si, si pente, in qualche modo si deve punire, e quindi c'è tutta la parte finale in cui si punisce, però fino a un certo punto è il suo desiderio che viene fuori, e lui è diventato la stella del suo paese, si è riscattato da una infanzia umile, no? E questa è la cosa bella, che lui ha seguito le sue scarpette rosse al di là del suo pentimento tardivo. Sì, io ecco, non sono, prendiamo la parte bella, positiva. Sì, però io non sono molto convinta che invece ci sia questo tipo di lettura da parte dei bambini. Mi ricordo quando io ho letto Andersen e devo, da bambina, non l'ho mai letto ai miei figli, penso se è capito bene, ma perché quello che mi veniva invece, anche perché ero comunque cresciuta con un'educazione cattolica, seppur non a questi livelli, era quasi una soddisfazione che un'altra, adesso lo posso leggere ovviamente con la consapevolezza di un'adulta, che quello che in fondo, quel desiderio di libertà e di autonomia che da bambina provavo, non era legittimo, e quindi ero contenta che un'altra bambina che l'aveva affermato in questa storia fosse stata punita. No. Non mi sembra, insomma, un grande, però ovviamente stiamo certo, discutendo certo, a elevati livelli, e questo è comunque molto bello. E non, insomma, quindi in questo senso forse noi ci sovrapponiamo. Adesso appunto non ho esperienze dirette, oltre la mia che pure varrà qualcosa da bambina, certo, il rischio di sovrapporsi appunto con, la, con il ragionamento dell'oggi a quello che può essere l'impatto sui bambini e le bambine di una favola di questo genere. E io a questo punto avevo perfetto, io avevo pensato di parlarvi un po' di la favola della mia, la fiaba, scusate, della mia vita, che è l'autobiografia di Andersen, ma vado al punto in cui lui ci parla, ci dà la sua lettura di Scarpette Rosse. Sono le 15:57, quindi sarò sintetica. E dunque, parlando di Scarpette Rosse, Andersen ci racconta qual è la trasposizione in fiaba di un elemento reale, biografico, cosa che lui ci giustifica, molto elargisce segreti personali, spiega che lui è la sirenetta, lui è i vari personaggi delle, delle sue fiabe, tutti legati a episodi biografici. Anche in questo caso c'è una fusione tra un sostrato tratto da temi popolari e un ricordo di un'esperienza diretta. Parla del giorno della sua comunione, e giorno in cui lui aveva un paio di stivali nuovi, che i quali ebbero più attenzione del buon Dio, ci dice, e quindi si pentì, a lungo soffrì così tanto ed espiò con questa scrittura. Dice Rodari, Karen quindi è il capro espiatorio di Andersen, insieme la sua ambasciatrice nel regno dei cieli. Per questo la sua penitenza è spinta fino all'orrore, e molto luteranamente la sua redenzione è fatta coincidere con la morte. Pensiamo per esempio alla piccola fiammiferaia che prima tu citavi, lì i buoni muoiono tutti, in modo anche atroce. Il soldatino di piombo anche di Andersen, o sbaglio? quello muore bruciato dentro la stufa, la sirenetta ve la risparmio, è una cosa terrificante, la piccola fiammiferaia alla fine muore di freddo, se la cava anche bene, e poi... però poi va in paradiso. Esatto, muore di freddo, e lì Rodari anche severamente dice, e Andersen che scrive la piccola fiammiferaia per in modo anche rassicurante per i bambini borghesi che al caldo delle loro case leggono la fiaba, però quindi l'elemento rassicurante è che poi alla fine la piccola fiammiferaia c'è la luce, quindi si capisce che lei, quindi questo elemento di coincidenza tra la morte e la redenzione sicuramente di nuovo è un elemento che ci colloca Andersen da un punto di vista culturale. Però, e qui voglio riprendere l'intervento che c'è stato, concedetemelo, e chiuderemo magari, si può, una decina di minuti dopo, e, perché l'ultimo paragrafo di questa introduzione che ho seguito si chiama... No, si sente. Ma... Sente? Sì, ecco. Si chiama Lago d'Arrammendo. E Rodari dice, la cosa meravigliosa di Andersen, cioè il motivo per cui noi ancora lo leggiamo e lo usiamo, è che Andersen era in grado di cavare una storia anche dalla cosa più insignificante, per esempio un ago d'Arrammendo. E continua dicendo, il meglio di Andersen è in questa pronta e totale ubbidienza alla fantasia. I ricordi e gli amici, le letture e i viaggi, i sentimenti e l'ideologia, gli uomini e gli animali, le sirene e gli imperatori, l'ago d'Arrammendo e il solino, il bucaneve e il cardo, il suo tempo e gli oggetti della vita quotidiana sono soltanto la materia prima a cui la fantasia impone le sue leggi e insieme una metamorfosi completa, senza residui. Il critico ha ragione di parlare di fiabe cristiane. Ma il lettore, perché prima c'è stata, insomma, in questa introduzione c'è un lungo ragionamento su appunto questo aspetto, diciamo, moralistico-religioso. Ma il lettore scopre che l'aggettivo resta legato alla loro storia letteraria, ma non alla loro essenza, che sta in un'assoluta libertà di movimento. Andersen gioca con le vecchie fiabe, gioca a inventarne di nuove, gioca a scoprire una fiaba dappertutto, in qualunque cosa veda, in chiunque gli passi accanto. In questo gioco egli trova il suo risarcimento pieno. Gioca con i bambini e con gli adulti che leggono alle spalle dei bambini. Gioca con tutta la sincerità di cui è capace, scherzando, commuovendosi, ammiccando, piangendo. L'invisibile presenza del pubblico bambino, che è il suo destinatario e committente, anziché creargli dei legami o degli impacci, sembra moltiplicare la sua libertà. Non ha bisogno né di bamboleggiare né di predicare. Può espandersi con naturalezza in tutte le direzioni, dar fondo alle sue riserve di tenerezza, di allegria, di malinconia. E poi si chiede, secondo me questa è una riflessione generale di Rodari sulla fiaba, con cui voglio chiudere questa prima puntata, che cos'è la fiaba al di là di un repertorio di meraviglie che il tempo può incaricarsi di svuotare? Volava il tappeto di Aladino, ma oggi volano i jet. Compariva uno schiavo o un cane se si strofinava un acciarino, oggi basta pigiare un bottone per far comparire le immagini di tutto il mondo. La fiaba però rimane il luogo di tutti i possibili. Le sue possibilità, se si prescinde dalle formule classiche, rimangono intatte. In Andersen, appunto, esse prendono nuova vita. E a cosa servono le fiabe? Se dovessero servire a ispirare buoni sentimenti, come anche forse Andersen credeva, morirebbero a ogni generazione. Secondo noi le fiabe servono soprattutto alla formazione di una mente aperta in tutte le direzioni del possibile, toccano nel bambino la molla dell'immaginazione, una molla essenziale alla formazione, non servono ad allevare esecutori diligenti e limitati, consumatori docili e fiduciosi, subalterni soddisfatti ed efficienti. Insomma, gli uomini che servono a un mondo che abbia il mito della produttività. In questo le fiabe sono altamente improduttive. Beh, chiudo così. Direi, che anno era? Quando 70. Ha scritto? 1970. Ecco, Rodari poi, insomma, ne parleremo ovviamente, è poco conosciuto, se un po', se nella seconda puntata. No, due puntate ad abbiamo due puntate ad aprire. Direi che insomma ne vale la pena, un personaggio di cui non si parla più molto, ma fra l'altro credo fosse un maestro, mi ricordo, sì, sì. Era un maestro, e, insomma, un personaggio meraviglioso, e questa cosa sembra scritta ieri. L'unica cosa è che lui dice gli uomini e lo declina solo al maschile, l'umanità, ma insomma nel 1970 allora sì, abbiamo sforato poi di pochissimo. Quindi nella prossima trasmissione di che parleremo? Allora, vi diamo appuntamento per sabato 21 febbraio. Nella prossima puntata avremo come ospite Fabio Traversa, che oggi è stato qui ad ascoltarci, ve l'ho già presentato. Con lui parleremo della raccolta delle fiabe italiane di Italo Calvino, quindi di questa straordinaria operazione culturale che Calvino fa nel contesto dell'Italia del dopoguerra. Ne leggeremo alcune, tu hai già pensato? No, quindi vabbè, sarà una sorpresa. Il palinsesto di Radio Onda Rossa continua con Radio Africa, che andrà in onda alle ore 16:30. Ora mandiamo la sigla che abbiamo scelto per chiudere questo spazio. Devo dire una sola cosa, perché all'indirizzo della radio sono arrivate delle segnalazioni e delle richieste di fiabe da inserire nella programmazione. Noi però, come si sarà forse un po' capito, abbiamo già definito con gli ospiti un blocco abbastanza lungo di puntate. Siamo però molto felici che ci scriviate, magari più in là riusciremo anche a soddisfare qualche richiesta. Per scriverci, sì, per adesso sì. Su ondarossa@ondarossa.info, magari più in là apriremo proprio una mail specifica della trasmissione. Perfetto, allora io vi saluto, ringrazio Tiziana di essere... Ciao a tutti, ciao a tutte. È stata con noi, e vi raccomando di tenervi le scarpette rosse, non quelle di Andersen, ma coi piedi, possibilmente. Con i piedi, con tutti i piedi ben calzate.